facevo notare alcune cose. Intanto mi riferivo a una convention dei comitati che aveva fatto lei all'università, forse qualcuno di voi c'era pure. Notavo come visi nuovi pochissimi. Per contro, in occasione dell'ultimo Natale, la sede dell'UDC di Partinico era affollatissima di giovani venuti a ricevere e a fare gli auguri alla locale divinità, Salvatore Cintola, UDC sempre, sempre pronto a promettere posti e call center trimestrali. L'eterna storia delle briciole offerte da chi ha a disposizione tutta la fetta della torta del bilancio della regione e dei piccioni pronti a beccare qualche briciola. Il ruolo della regione in tutto questo è fondamentale, nel senso che c'è un flusso di spesa che rappresenta una sorta di gigantesca voragine di spesa ed economia assistita. Non è caso che alcune cose le conoscete meglio di me, assistenzialismo, affari, appalti piccoli, appalti grandi, assunzioni, nomine, leggine per precari, immissioni in ruolo, raccomandazioni, acquisti, convenzioni, finanziamenti ad enti inutili, questi ce ne sono tantissimi, corsi professionali in cui pigli una casalinga che diventa professoressa, fondi per culti religiosi. Conoscevo un prete di Partinico che è diventato UDC perché Cintola ci fece avere 200.000 euro per riparare la chiesa, guai chi glielo tocca, restauri di chiese, parrocchie, porro, pippe, LSU, RSU eccetera. Vedete che è un meccanismo complesso. Tra l'altro, quando ho pubblicato questa lettera in un sito, uno mi ha mandato subito una cosa, dice, tanto per confermare quello che dici, Salvatore Cuffaro in finanziaria stanzia 20 milioni per stabilire i precari. Siamo alla vigilia dell'elezione regionale, quindi è una scelta proprio fatta così per caso, sbagliavo forse. E lui dice, all'atto del nostro insediamento, ha detto Cuffaro, abbiamo trovato ben 60.000 lavoratori precari. Oggi sono circa 15.000. Con questa procedura, che vuole essere un primo segnale per il 2006, contiamo di ridurre ulteriormente il loro numero e questo impegno continuerà a essere una priorità anche per il futuro. Quindi voi ce l'avete con Cuffaro, è un benemerito della patria. Cioè, se riesce a stabilizzare già 40.000 lavoratori e ne rimane di 60.000, ne restano 15.000, che poi dice che si era impegnato a chiudere tutto, è uno che dà posti di lavoro. E arriviamo anche a un'altra cosa che non c'entra niente con Cuffaro, assolutamente, la mafia dà posti di lavoro. E questo di qua è una delle tante minchiate che abitualmente ci capita di dover sentire da parte di gente che è convinta di questo. E sta cosa che la mafia dà posti di lavoro mi richiama quello che si è scoperto con l'arresto di Salvatore Lo Piccolo, cioè che aveva un esercito di 500 persone a 1.000 euro al mese che gli facevano gli esattori del pizzo. Se io uso questa cifra, significa almeno 500.000 euro servivano per pagare gli esattori e il resto ovviamente andava a finire nelle sue tasche. Si parla di 75.000 euro al giorno. Ecco, più umane della città di Quista non si può chiedere. E dava pure lavoro a 500 persone, 1.000 euro al mese. Commissionare un delitto costa pure 1.000 euro, non è dare lavoro. Quindi il discorso, se alziamo un po' gli occhi, oggi pare, dico pare, perché ho molte riserve che questa cosa sia vera e non sia una montatura giornalistica, che alcuni industriali siciliani si stiano accorgendo di quanto il pizzo pesa negativamente nella loro economia capitalistica e pare che se lo vogliono scrollare questa cosa. Però di fatto, ho detto, se pesa negativamente, è chiaro che bisogna mettere in circolo quante possibilità di investimento avremmo avuto in Sicilia e molta gente non è venuta a investire proprio perché per non sottomettersi a pagare a Cosa Nostra il pizzo o a finanziarla. Cioè, in una ricerca non fatta da me, ma fatta proprio dalla Confindustria 7 anni fa, si riteneva che saremmo stati benissimo senza la mafia e senza il pizzo all'altezza di tutte le altre regioni d'Italia, e che la mafia ha ritardato di quasi 25 anni un decollo, diciamo così, un po' più economicamente più redditizio della Sicilia. Quindi mi pare una scelta che è quella proprio di un'economia totalmente assistita. Non è che Bossi ci ha molto torto quando dice voi non fate niente e vi prendete i nostri soldi, cioè ci ha torto quando dice che non facciamo niente, però di fatto, ecco, una persona che conosco e che lavora alla ragioneria della Sicilia mi ha passato alcuni dati che dovrebbero un poco farci riflettere. Lui mi ha detto: in Sicilia il flusso dell'economia assistita con i soldi pubblici ha superato l'anno scorso il 33% del PIL. Cioè significa che il prodotto, diciamo così, l'economia assistita nelle altre regioni è di circa il 19%, in Sicilia è del 33%, e di questo il 19% è gestito dalla regione. È una quota che è andata ad aumentare notevolmente negli anni. Contate che nell'80 era il 23%, adesso siamo al 33%, e quindi siamo in un'economia totalmente parassitaria. E il rilancio economico siciliano, di cui ogni tanto qualcuno parla, è chiaro che in questo contesto rimane proprio un rilancio drogato dal contributo che lo Stato dà. Ricordate, prima di essere eletto o rieletto, Cuffaro è andato da Berlusconi, che gli ha dato 1 milione di euro per sistemare una serie di cose. Quindi quando spuntano i Cuffaro Boys, l'ultima volta ce n'erano 15.000 al Palasport a gridare a questo loro idolo, nessuno si stupisca, perché il meccanismo è fatto in maniera tale, la risposta al fatto che si vuole Cuffaro in un borsellino sta tutta là, cioè sta tutta là nel ricatto capillare che c'è. Se vuoi vivere, per usare un verso che una volta un ragazzo mi ha dato e che sta in quel libro di poesie su Peppino che ho scritto, se vuoi vivere ci devi dare il culo e l'anima. Non si scappa da questo sistema. Quindi a questo punto lavorare diventa un privilegio da conquistare e molto spesso da pagare. Vabbè, voglio in tutto questo, tanto per non farla proprio scura, dire che un altro particolare che mi ha incuriosito molti anni fa,